incedere terrificante, potremmo dire quello di Rhythm and Noise. Poi d'altronde la trasmissione, questa seconda parte, continua la prima, quindi è ancora dentro il ritmo e il rumore, e abbiamo appunto continuato con i Syndicat che avevano stoppato la prima parte, appunto la prima ora di 451 frammenti sonori, in compagnia ovviamente di Max Macchia. Non so se è ovvio, però ve lo dico così, in questa maniera. E poi appunto Rhythm and Noise, storica formazione, anche se ha fatto veramente poco, ma molto molto importante, a parte che è il lato più in industrialoid della Ralph Record, quindi l'etichetta dei Residents, ma di tanta, insomma, San Francisco e California deragliante. Abbiamo anche dedicato qualche tempo fa, insomma, la trasmissione appunto anche su la California più underground, e quindi anche alla Ralph Record. E a questo proposito, anzi, vi dico di andare ogni tanto, insomma, sul blog, anche a cercare le vecchie trasmissioni, 451 frammenti sonori.noblogs.org. E parlando appunto di ritmicità, di noise, e di come si intersecano queste con le Syndicat, sicuramente abbiamo trovato così un momento anche piuttosto oscuro, una sorta appunto di industrial ambient, con tanto appunto comunque di ambientazione che viene ritmata poi da questo vociare, anche in questo senso. Molte dei concretisti che stiamo trattando, ma che spesso, insomma, passano dalle parti di 451, hanno questa caratteristica del ritmare attraverso una voce, attraverso i loop vocali, o addirittura appunto la voce cadenzata, se pensiamo, insomma, a certe anche teatralità poi che danno appunto anche ritmicità, insomma, dalla Fura del Bauhaus a molti dei lavori anche dei primi Laibach, ma veramente potremmo uscire con tanti esempi di loop, oppure di appunto recitato, cadenzato in maniera industrial, tanto da creare appunto un ritmo, e poi appunto il rumore bianco quasi delle Syndicat, che si è trasformato poi senza soluzione di continuità con Rhythm and Noise, per poi diventare una sorta di giungla industriale, dove addirittura in maniera anche piuttosto violenta, e d'altronde la nostra era anche piuttosto abituata a queste a queste arrampicate folli a livello vocale, di Amanda Gallas, che collaborava appunto, magari qualcuno l'ha anche riconosciuta, dentro appunto le ritmicità e il noise iperurbano di Rhythm and Noise, appunto la grande, una delle grandi, insomma, vocalità degli anni 80 90, questo indubbiamente. E dentro appunto uno dei progetti Rhythm and Noise più di culto, ma con pochi lavori, fondamentalmente sono due lavori, ma due lavori veramente eccezionali, per capacità nel saper dialettizzare il suono concreto, industrial, con poi una sapienza nel saper mescolare drone e momenti di synth molto molto distopici, e anche la capacità appunto di continuare con quel concretismo, che tra l'altro in America ha avuto anche altre eccezionalità. Pensiamo, insomma, a Control Bleeding, a John Duncan, tra l'altro, insomma, a distanza anche a Bologna. Bologna e il Duncan non controlla il bleeding. Da Rhythm and Noise a uno invece dei personaggi nuovi che riprende, perché no, appunto già il titolo dice tutto, la titolazione, la ragione sociale, ecco, in termini giuridici, Ancient Methods, che prima era ancora And Protzman e Michael Volunhaupt, prima appunto in due, poi se ne andrà insomma Protzman, e quindi Ancient Method rimarrà così in solitario, progetto in solo appunto di Volunhaupt. Con i due, dove andiamo appunto a prendere quella techno industrial che li ha resi insomma famosi per un breve periodo, ovviamente in certi ambienti, ecco, ma malsani, ecco, direi. Sicuramente il periodo insomma più interessante, non che dopo insomma siano cose da buttare via, ma di fatto insomma la prima collezione, Collection of Ancient Ales, beh, sicuramente ci sono dei gioielli dove appunto la formazione, se vogliamo insomma piuttosto anche giovani rispetto ad esempio agli stessi Rhythm and Noise, che sono lavori degli anni 80, ecco, oltre tra l'altro dai due dischi strepitosi. Consiglio anche, beh, si trova insomma facilmente insomma su YouTube, anche di vedere 20 minuti veramente di video sperimentazione molto molto interessante, anche oltre rispetto a certo cyberpunk, che insomma faceva cose molto interessanti metà fine anni 80, e qua si va veramente verso anche una sperimentazione visiva, e non soltanto a livello di immaginario video sonoro, ma anche proprio di sperimentazione appunto legato all'immagine stessa, quindi molto interessante proprio anche a livello insomma strettamente cinematografico, ma anche se le cose insomma di fatto vengono mischiate, come d'altronde molto del cinema sperimentale migliore, tra musica appunto e immagine. Ancient Method prende appunto la ragione sociale, ci dice di quanto prenda appunto da vecchi padri come appunto Rhythm and Noise, ma buona parte insomma dell'IBM, dell'Electronic Body Music, dai belgi From 242, ai canadesi Skinny Puppy eccetera, Front Line Assembly, inglesi ovviamente, ma abbiamo ad esempio anche messo nella prima parte i Dive, prima Clinic, per dire un'altra delle splendide esperienze appunto legate all'elettronica body music, tanto dell'industria, soprattutto quell'industria appunto ritmato che andava a incrociare appunto il noise, e sono stati anche piuttosto capaci in questo senso di creare appunto delle ambientazioni molto molto potenti in termini appunto in industrial, ma anche appunto con quel senso anche sapiente di trattare appunto il rumore. Ancient Method, appunto ci venivano a dire, insomma, i nostri come appunto trattare e come appunto anche bistrattare, in questo caso il sottoscritto, appunto la materia sonora ritmica, tanto insomma di techno industrial, nel vero senso anche della parola, forse anche in un senso molto molto compiuto, se pensiamo insomma che appunto forse per molto tempo, lo accennavo nella prima ora, per molto tempo si è voluto insomma dare la paternità a molti gruppi ex industrial, sono voluti dare più o meno giustamente insomma la paternità rispetto a certe sonorità techno, però di fatto poi quando molti si sono messi a fare la techno, appunto venendo dall'industrial storico, beh, non è che si siano sentite poi cose così eccezionali, no? Se pensiamo appunto a Test Department, insomma non mi piace insomma questa cosa, insomma sono molto legato ai dischi degli anni '80, però di fatto insomma quando tentarono la strada della techno, beh, insomma non è che fossero cose così pregevoli, forse in un periodo insomma ancora forse non avevano capito che era proprio il connubio, la dialettica che poteva essere interessante, ma avevamo perso insomma quello spessore appunto industriale che appunto in dischi come Totality negli anni 90 facessero perdere la strada, e quindi anche certe paternità. Adesso un esempio su tutti è quello di Test Department, seppure insomma ci sono delle eccezioni, sicuramente gli stessi Cabaret Voltaire, padre insomma insieme a Trouble in Greenstone delle musiche industriali, o della musica industriale per meglio dire, poi sono usciti a fare, anche se proprio non esattamente della techno, e non l'hanno mai dichiarato insomma la blip house, e facendo insomma più distanti ecco da quello che è stato poi definito appunto suono techno, mentre invece appunto per i Test Department si parlava proprio di techno, perlomeno loro la intendevano in quella maniera. Quindi che si sia poi arrivati insomma con Ancient Method e con anche formazioni insomma prima la scorsa insomma ora abbiamo sentito ad esempio Sonar, che venivano appunto da addirittura dal beat belga, da IBM appunto belga, i Dive Clinic che vi dicevo prima, poi diventati appunto Sonar, ma di fatto insomma tranne alcuni casi non difficile ecco che si intersecasse anche in termini storici insomma di un percorso storico, formazioni industrial che poi diventassero appunto techno industrial, ma anche viceversa ecco, mentre invece appunto per Sonar, come abbiamo appunto ascoltato nella prima ora, e poi potrete insomma ascoltarlo ovviamente se non state già facendo, ma questi sono insomma paradossi temporali, nel blog ovviamente, quindi con la trasmissione insomma podcast, e per quanto riguarda appunto Ancient Method si arriva proprio dopo anni e anni di maturazione, addirittura proprio a un senso compiuto se vogliamo, proprio chiaro, forse fin troppo insomma, quasi da diventare anche una sorta anche di cliché, ma d'altronde insomma funziona anche così nelle arti, anche e soprattutto nelle arti che si fanno avanguardie. Prima citavo appunto Sonar, potremmo citare anche che vengono dalla IBM, quindi dall'Electronic Body Music, che molto ha a che fare insomma con l'industrial anche storico, ma qua si sta parlando proprio invece esattamente di techno hardcore, il fratello tra l'altro di Frankie Bones, forse, anzi senza forse, sicuramente più famoso, appunto uno degli inventori del suono hardcore, nato a Brooklyn, poi dopo insomma trasferitosi in Europa e poi diventato insomma filiando vari da Gabber eccetera eccetera, e anche se poi a ben vedere insomma c'è anche proprio una certa linearità di suono hardcore sempre nella produzione appunto di Frankie Bones, ma stiamo andando appunto a trovare il fratello Adam X, fratello che se appunto il Frankie Bones inventava il suono hardcore a Brooklyn, beh Adam X faceva in effetti proprio una techno industrial con tanto veramente di svisamento e acid, veramente una cosa molto molto così potremmo dire, non amo molto il termine estremo, perché poi si fa il giochino poi di andare sempre oltre insomma, e poi diventa appunto decisamente velleitare la faccenda. Qua però è un estremo, se vogliamo, fatemi passare insomma il termine, è un estremo nobile, nel senso che ci fa uscire appunto da quello che è anche il suono tecno dei primi 90. Stiamo appunto per andare a sentire un pezzo di quel periodo tra il 92 e il 94, tratto appunto da Acid Archive 92-94 di Adam X, e lì c'è veramente un suono che va a collimare tra acid, techno, industrial, hardcore, molto interessante la faccenda Rhythm and Noise a questo punto di Adam X, che ce l'andiamo appunto ad ascoltare. Eccolo. We'll be right back. Oh, forse uno dei pezzi più belli di sempre delle musiche elettroniche, ed è difficile poi tra l'altro intervenire dopo appunto pezzi che non so neanche se considerarli belli, perché vanno oltre insomma il senso estetico. Probabilmente mi verrebbe insomma l'immagine più forte che mi viene dietro un pezzo del genere è quello forse dell'uomo che va oltre il sistema solare, insomma tante menate per stronzate eccetera eccetera, insomma dito con la coloritura dialettale o quant'altro insomma che volete, ma di fatto insomma ci sono delle cose, ecco, che portano fuori, ecco, veramente esternalizzano in questo senso, come dicevo prima, un'unione fatta con Adam X, poi Caustic Window per un paio di minuti e poi AFX dal Gable Auto Bulb, appunto tre minuti di visionarietà assurda, tra veramente un senso di un cosmo accelerato che va veramente verso un altro prove vero a questo punto a livello sonoro, e nel frattempo battute che vanno altrettanto all'impazzata verso non si sa dove, ma con veramente un senso della lucentezza anche, fa ricordare insomma appunto un attraversamento spaziale, intergalattico sul serio, ecco, in questo senso, se musica del futuro, della fantascienza può esserci, beh, quella passata per le maglie di un certo Richard D. James di quel periodo, insomma, degli anni 90, con appunto un suo modo di intendere il rhythm and noise, che insomma era anche parallelo ad esempio a quello di Adam X che abbiamo ascoltato prima, ma con quella visionarietà, quell'assurdismo che per una decina d'anni ha avuto il nostro negli anni 90, che veramente l'hanno portato insomma a essere considerato il genio. Poi si sa insomma, come dire, non da queste parti non si è per i miti, come dire, no moriros come cantavano dei giovani strangolatori qualche decennio fa, in maniera molto punk, ma anche lì insomma in maniera un po' punk un po' particolare, visto che usavano le tastiere, ma senza perdermi insomma in riferimento legati a strangolatori di qualche decennio fa, con appunto Richard D. James si va appunto a trovare uno dei punti più visionari insomma delle musiche elettroniche. E sembrava insomma impossibile unire una satima che amoreggia in maniera così, perdendosi dentro le lidi cosmicheggianti e tecno furiose che vanno appunto a creare un suono drill and bass, come venne appunto definito all'epoca, un martello appunto di battiti di beat. E per concludere, abbiamo citato e abbiamo anche ascoltato parzialmente in sottofondo Splendore Geometrico. Beh, andiamo a prenderli però remixati in questo caso da storici del ritmo e del rumore. Prima li citavo nella formazione così madre, ovvero Trombin Greistel, che insieme insomma dicevo prima a Camere Voltaire hanno creato la cosiddetta musica industrial. Ci sono state insomma delle importanti filiazioni rispetto a Trombin Greistel o Gristel, fate un po' voi anche qua, di certo insomma se volete avere una buona pronuncia da me, ecco, forse avete sbagliato canale, se non addirittura insomma trasmissione. Ma vabbè, a parte insomma un po' di sana autoironia legata appunto al mio pessimo inglese, di fatto insomma dai TG, così lo dico all'italiana, me la cavo in questa maniera, spero perlomeno, sai che TV, Coil e anche Crise in Cose, che tra l'altro sembravano insomma anche essersi persi insomma qualche anno fa. Invece con Nick Void hanno ritrovato anche una verve piuttosto intensa, e poi tra l'altro insomma libro splendido di Cose di Fantutti, lavori editati finalmente dopo tanto tempo, dell'altro Crise in Cose, appunto Chris, e andiamo a prenderli appunto con un remix, quindi loro, anche padri appunto in un certo modo di intendere il Little Noise, quelli che meglio, abbiamo detto, hanno caratterizzato e hanno saputo insomma costruire delle maglie legate alla ritmicità e al rumore, ovvero splendor geometrico. Andiamo a sentire appunto come dei maestri si rivolgono a dei, come dire, fratelli minori per età, ma di fatto insomma poi anche fratelli minori di poca età, anche se i Throbbing Gristle, insomma, se pensiamo a Count Transmission, il primo progetto sperimentale più legato alla body art, quindi James P. Orange e Cose Fan Tutti, andiamo addirittura ai primi anni 70, ma di fatto insomma il splendore geometrico alla fine degli anni 70 creavano appunto i loro primi incubi tra appunto ritmi e rumori che si dialettizzavano, a volte si mischiavano, si intrecciavano in maniera appunto magistrale, tanto che appunto vogliamo, come dire, chiudere appunto una faccenda che non si chiude, viva Dio che sia così, con appunto lo storico progetto spagnolo Splendor Geometrico e appunto nel remix di Crise in Cose. Max Macchia vi saluta e vi rimanda alla prossima. Non fate i bravi, no, non li fate, ciao.